Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, le scrivo sull'onda di una forte indignazione per le recenti notizie che riguardano il probabile, o dobbiamo dire certo, innalzamento dell'età pensionabile per le donne. Le donne normali, quelle che si svegliano alle 6 di mattina e cominciano a lavorare in casa, che portano i figli a scuola e che poi devono andare anche a riprenderseli. Le donne che poi vanno in ufficio o in fabbrica e che quando tornano a casa devono badare a ricostruire un minimo di vita familiare, continuando a lavorare per fare quadrare pranzo e cena, spesso non riuscendovi. Queste donne, che arrivano a 60 anni già stanche e spente, non sono d'accordo con questo provvedimento. Le donne normali, che vivono del proprio lavoro e combattono la loro diuturna battaglia per la sopravvivenza, tornando a casa stanche e con gli occhi traballanti, a 60 anni ne hanno piene le scatole. Dicono che la vita media è aumentata. E allora? A parte il fatto che si tratta di una bufala, se consideriamo che Dante scrisse la sua Divina Commedia a 35 anni, dicendo che si trovava nel mezzo del cammin di nostra vita. Ma poi, dobbiamo proprio costringere la gente ad andare in pensione solo poco prima di morire? Certo, questa classe dirigente è lontana anni luce dai bisogni e dalle problematiche dei cittadini. Mi vengono in mente le parole di Lucio Sergio Catilina. Per noi la miseria in casa, i debiti fuori, triste l'oggi, spaventoso il domani, mentre essi si van costruendo case su case e sprofondano nelle ricchezze sperperandole senza nemmeno rischiare di esaurirle. Ecco, caro direttore, ci vorrebbe una rivoluzione, ma una rivoluzione vera come quella francese. Sono amareggiato e disgustato. Antonio. Gentile Antonio, la sua indignazione è certamente comprensibile, ma altrettanto sinceramente non condivisibile. Vede, c'è un punto nella sua lettera che vorrei sottolineare. Lei cita Dante e il mezzo del cammin di nostra vita per contestare, definendola una bufala, quanto affermano le statistiche sull'aumento dell'età media di vita. No, caro Antonio, i fatti non si smentiscono semplicemente con una battuta. Le statistiche riguardano il passato e quindi si basano su dati certi e reali. Ebbene, l'età media di vita ha superato i 60 anni negli anni 50 e supera ora gli 80 anni per le donne e i 75 per gli uomini. Attualmente le donne vivono sempre in media 6 anni più degli uomini. Questo, ovviamente, è uno solo degli elementi che vanno presi in considerazione quando si parla di questi problemi previdenziali. Si deve giustamente tener conto di tanti elementi ed è giusto adottare comportamenti differenziati, ma non c'è alcuna ragione per cui una donna senza figli non abbia lo stesso trattamento previdenziale di un uomo, mentre ritengo corretto che la collettività riconosca il carattere anche sociale della maternità attraverso una riduzione dell'età di pensionamento proporzionale al numero dei figli. Realtà diverse richiedono impegni diversi, ma l'essere donna comporta la stessa dignità, gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altra persona. Egregio direttore, ho sentito la vostra trasmissione sulla natalità italiana. C'è stato detto che nei prossimi 20 anni avremo bisogno di 300.000 immigrati all'anno per compensare la mancata natalità italiana e sostenere il sistema. Secondo il mio modesto avviso, i nostri giovani non hanno famiglie e figli per mancanza di visione ottimistica del futuro, per sofferenze che non trovano risposte e per precarietà nel lavoro, ma anche per mancanza di sani principi e ideologie forti che li accompagnino nel cammino della vita. È ovvio che se si continua a fare entrare extracomunitari, i nostri giovani non troveranno mai il lavoro. Allora mi chiedo che cosa stia facendo in questo senso il Ministro della Gioventù. A parte le solite chiacchiere, non sarebbe il caso di trovare delle soluzioni per dare ai nostri giovani maggiori stimoli, invitandoli chiaramente a fare un po' di sacrifici, anche provvisori, per imparare un mestiere, per darsi da fare e per cercare di migliorarsi? Penso inoltre che anche voi media abbiate un po' di responsabilità in questo senso, perché spesso andate ripetendo che i nostri giovani non intendono fare certi mestieri e quindi li fanno gli immigrati. Non sarebbe il caso di ribaltare questo modo di approcciare l'argomento, diffondendo maggiormente quei sani principi di cui noi sessantenni ci siamo nutriti per crearci un futuro? Massimo. Se c'è una cosa che davvero mi infastidisce, e non poco, sono i pacifisti. Ovvero coloro che, con una presunzione ai limiti dell'arroganza, si credono i portatori di quel senso di civiltà, tolleranza, pace e giustizia sociale in cui in realtà non credono affatto. Mi riferisco in particolare alla questione delle navi che sono state fermate dai militari israeliani, con i relativi morti, purtroppo, e con l'incommensurabile indignazione dei pacifisti, così sensibili a questi eventi. Vorrei sapere qual è la loro scala di valori per le vite umane che si perdono in ogni parte del mondo, con frequenza quasi quotidiana. Per la morte di questi 10 attivisti, alcuni dei quali probabilmente sostenitori di Hamas, con tutto ciò che questo implica, esige una condanna mondiale da parte dell'opinione pubblica. Ma per quelle centinaia e centinaia di innocenti che vengono quotidianamente ammazzati nei mercati, nelle chiese o per strada dai kamikaze in Pakistan, Afghanistan o in Iraq, non una lacrima, non una parola e nemmeno una nota di biasimo. Donne, bambini, anziani, precisi bersagli che vengono consapevolmente trucidati nelle città da mostri che nel nome di Allah spargono sangue, odio e dolore. In questi casi non si scende in piazza, non si marcia per le strade, non si bruciano bandiere e i vari Santoro e Travaglio non dedicano neanche un minuto del loro tempo a queste tragedie. Marco. Signor direttore, in questi giorni la stampa riporta che l'antitrust ha avviato procedure per accertare imbrogli nella promozione e vendita di viaggi e voli aerei in internet. Ho visto anche alcuni servizi in TV con interviste a viaggiatori e responsabili delle associazioni consumatori. Assenti e ignorati, forse perché non interpellati, i rappresentanti delle agenzie di viaggio. Finalmente qualcuno scopre che, in fondo, le agenzie di viaggio, quelle serie, sono i veri consulenti per chi viaggia, perché affiancano il turista dal momento della prenotazione fino al ritorno. Finalmente si è constatato che anche chi fa da sé ha avuto problemi con i fornitori di servizi. Finora erano solo le agenzie, che sono intermediarie, gli imbroglioni, mentre gli altri non avevano avuto mai problemi. Voglio sollevare un problema grande come una casa, ma che nessun antitrust né associazione consumatori ha voluto affrontare: la trasparenza dei prezzi dei voli aerei e dei viaggi. Nonostante le mie personali segnalazioni, nonostante le prescrizioni di legge sul commercio e, più recentemente, la legge Bersani, che stabiliscono che i prezzi esposti e promossi presso il pubblico debbano essere compresi di tutto, tasse e ammenicoli vari, assistiamo ancora a biglietti pubblicizzati a 50 centesimi, ma che alla fine costano 80 euro, spese per uso di carta di credito obbligatoria di 10 euro a persona, prenotata e non per ogni transazione, pacchetti turistici scontatissimi da 250 euro a settimana, ma che alla fine costano 400, per aggiunta di quote di iscrizione obbligatoria, assicurazione obbligatoria, tasse aeroportuali strane, adeguamento carburante, eccetera. Quando una persona va a comprare il pane, paga il prezzo esposto. Il fornaio non aggiunge al prezzo esposto l'IVA, la tassa sulle insegne, il costo del sacchetto, il costo della pesatura, il costo dello scontrino, eccetera. Nei viaggi sembra di essere in tutt'altra Italia. Non capisco che interessi ci siano a fare applicare la legge per una maggiore trasparenza e l'effettiva concorrenza tra i fornitori di servizi. In questa confusione, chi ne fa le spese sono gli agenti di viaggio che fanno la figura delle sanguisughe. Si sappia che le quote di iscrizione, assicurazioni e altre cose non restano all'agenzia. Walter. La regione Lombardia ha 2.700 dipendenti su una popolazione di oltre 9 milioni di abitanti. La regione Sicilia ne ha oltre 13.000 secondo alcune fonti e oltre 23.000 secondo altre. E gli abitanti della Sicilia sono la metà di quelli della Lombardia. Come mai? Chi controlla i loro incarichi di lavoro? Che fine fanno le inchieste di Stefania Petix a Striscia la Notizia sulle decine e decine di case requisite a mafiosi e date in comodato d'uso ad associazioni inesistenti, i cui effettivi beneficiari sono persone comunque legate al potere politico locale? L'unica salvezza per l'Italia è dare ampia libertà e soprattutto indipendenza a Sicilia, Campania e Calabria. Pierluigi. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci